Questo spettacolo nasce da proprio carceri, carceri di tutto il mondo, che no, dentro queste carceri, soprattutto carceri di Medio Oriente, che io vengo da questa parte, ce ne sono tantissime storie brutte, con violenza, nasce da una storia vera. Io già conoscevo una ragazza con questa storia, nasce da lei. E in particolare se appunto questo spettacolo indaga appunto la detenzione in queste carceri, e una cosa interessante è che spesso la carcerazione viene usata come strumento per reprimere il dissenso, cioè le persone finiscono in galera non perché hanno commesso dei reati, ma perché magari sono oppositori politici. Persone che non sono, sono le persone politici, sono giornalisti, autori, autrici, sono le persone che solo stanno in carcere per la libertà, per cercare la libertà, per essere critico sulla religione, essere critico delle società, governo, per questo, non sono prigionieri normali queste persone. Io ancora ho paura di dire questa parte, il nome, il titolo, questo paese. Io ho paura ancora, sono sotto questa paura sempre. Non do un titolo, un nome di una zona molto specifico, ma solo posso dire c'è un mondo che fanno così. E in queste carceri avvengono, ci sono condizioni disumane, vengono anche torture. Sì, certo, vengono anche torture. Per me questo spettacolo è un urlo, non è, si può dire uno spettacolo, possiamo dire anche non è uno spettacolo teatrale. Per me più di tutto è un urlo, è un linguaggio per criticare, è un linguaggio per protestare quello che ho visto, quello che mi sono vissuta, quello che per quel motivo io adesso obbligo di uscire da mia parte. Sì, è una denuncia più che uno spettacolo teatrale. A passarsela peggio nelle carceri sono soprattutto le donne. Sì, sì, soprattutto le donne. Un'altra cosa che è importante, importanza di questa storia è quello, continuità questa storia. Questa storia continua sempre, anche questi giorni. Due giorni fa hanno ucciso più di 20 giovani in carceri in questa zona. Una mia amica, mia cara amica, hanno ucciso lei un mese fa, proprio con questa storia che noi stiamo adesso portando a scena. Questa storia sempre ripete da 40 anni fa fino ad oggi, per quello per me è molto importante urlare questa storia e criticarla.